Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. La filosofia naturale, e in particolare modo la chimica, nel senso più ampio del termine, divenne, si può dire, la mia unica occupazione. Lessi con ardore le opere così acute e geniali che i ricercatori moderni avevano scritto in proposito. Frequentai le lezioni degli uomini di scienza dell'università e ne coltivai l'amicizia, e persino nel signor Krempe trovai molto buon senso e vera dottrina, combinati, è vero, con fisionomia e modi scostanti, ma non per questo meno degni di attenzione. Nel signor Waldman trovai invece un vero amico. La sua gentilezza era assolutamente aliena da ogni forma di dogmatismo, e i suoi consigli venivano dati con aria di franchezza e di bontà che escludeva ogni idea di pedanteria. In mille modi egli spianò per me il sentiero della conoscenza e rese le ricerche più astruse chiare e facili al mio apprendimento. La mia applicazione fu inizialmente incerta e incostante, ma si rinforzò man mano che procedevo, e in breve divenne così ardente ed entusiasta che le stelle spesso impallidivano nella luce del mattino mentre ero ancora occupato nel mio laboratorio. È facile immaginare come, applicandomi con tanta costanza, facessi rapidi progressi. La mia operosità era motivo di stupore per gli studenti, mentre il mio profitto lo era per i maestri. Il professor Krempe mi chiedeva spesso con un sorrisetto come andasse con Cornelio Agrippa, mentre il signor Waldman si mostrava profondamente compiaciuto per i miei progressi. In questo modo passarono 2 anni, nel corso dei quali non mi recai mai in visita a Ginevra, ma mi dedicai corpo e anima a esperimenti che speravo mi conducessero a qualche scoperta. Solo coloro che le hanno sperimentate possono farsi un'idea delle seduzioni della scienza. In altri studi si procede fino dove altri sono arrivati prima di noi, e poi non v'è più nulla da sapere. Ma nella ricerca scientifica c'è sempre materia di scoperta e di meraviglia. Una mente di modesta capacità che si dedichi con costanza a un unico studio deve infallibilmente giungere a un alto grado di competenza. E io, che miravo continuamente a un unico oggetto di ricerca e che solo a questo mi interessavo, feci progressi così rapidi da ideare in capo a 2 anni miglioramenti negli apparecchi chimici che mi valsero all'università grande stima e ammirazione. Arrivato a questo punto, in cui teoria e pratica della filosofia naturale mi erano così familiari da rendermi superflue le lezioni di qualsiasi professore di Ingolstadt, pensai che non avrei potuto ricavare alcun progresso a star lì, e già avevo deciso di fare ritorno alla mia famiglia e alla mia città natale, quando si verificò un incidente che protrasse il mio soggiorno. Uno dei fenomeni che aveva attirato maggiormente la mia attenzione era la struttura del corpo umano, o meglio, di ogni essere vivente, da dove procede il principio di vita, mi chiedevo spesso. Era una domanda ardita, una domanda che è sempre stata considerata un mistero, oppure quante cose potremmo conoscere se viltà e trascuratezza non avessero impedito le nostre ricerche. Riflettei su tale argomento e infine decisi di dedicarmi particolarmente a quelle branche della filosofia naturale che si ricollegano alla fisiologia. Se non fossi stato spinto da un entusiasmo quasi sovrumano, lo studio di queste materie sarebbe stato noioso fino all'intollerabile. Per indagare le cause della vita, dobbiamo prima fare ricorso alla morte. Mi familiarizzai con la scienza dell'anatomia, ma non era sufficiente. Bisognava che osservassi anche il naturale scadere e corrompersi del corpo umano. Educandomi, mio padre aveva badato a che la mia mente non si lasciasse impressionare da terrori soprannaturali. Non ricordo di aver tremato a un racconto di superstizioni o di aver temuto l'apparizione di uno spirito. Le tenebre non avevano effetto alcuno sulla mia immaginazione, e il cimitero era per me semplicemente il ricettacolo di corpi privi di vita che, dopo essere stati sede di forze di bellezza, erano diventati pasto per i vermi. Ora dovevo studiare le cause e il processo di questa decomposizione, ed ero costretto a passare giorni e notti in cripte e ossari. La mia attenzione si fissava sugli oggetti che più ripugnavano la delicatezza dei sentimenti umani. Vidi come la bella forma dell'uomo degenera e si dissolve. Osservai la corruzione della morte prendere posto su guance già fiorenti di vita. Vidi come il verme erediti le meraviglie dell'occhio e del cervello. Mi soffermai a esaminare e analizzare tutte le minime relazioni di causa ed effetto, quali vengono esemplificate nel passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla vita, finché dal buio in cui brancolavo balenò su di me una luce improvvisa. Una luce così vivida e meravigliosa, eppure così semplice che, pur colto da vertigini per le sconfinate prospettive che mi apriva, fui sorpreso che fra tanti uomini di genio che avevano dedicato le loro ricerche alla stessa scienza, a me solo, fosse riservato di scoprire un segreto così stupefacente. Non stavo rievocando la visione di un pazzo. Badate che il sole splenda nel cielo non è più vero di ciò che affermo essere vero. Poteva trattarsi di un miracolo, ma le tappe della scoperta erano chiare ed evidenti. Dopo giorni e notti di lavoro e fatica incredibili, riuscii a scoprire la causa della generazione e della vita. Anzi, c'è di più. Fui in grado di infondere vita alla materia inanimata. Lo sbalordimento che dapprima provai a questa scoperta si trasformò presto in gioia ed esaltazione. Dopo un lavoro così lungo e accanito, giungere all'improvviso al sommo dei miei desideri rappresentava il migliore premio delle mie fatiche. Ma questa scoperta era così grande e sconvolgente da farmi dimenticare tutti i passi che progressivamente mi avevano condotto a essa e considerare soltanto il risultato. Io stringevo ora in pugno quello che era stato il fine e il sogno degli uomini più saggi sin dalla creazione del mondo. Non che tutto si fosse svelato improvvisamente dinanzi ai miei occhi, come una scena magica, no. Il risultato che avevo ottenuto era tale da dirigere i miei sforzi, non appena l'avrei potuto, verso l'oggetto della mia ricerca, piuttosto che fornirmene una perfetta attuazione. Ero come l'arabo che è sepolto con i morti. Era riuscito a ritornare alla vita aiutato solo da una luce incerta e apparentemente inefficace. Amico mio, dalla vostra ansia, dalla meraviglia e dalla speranza che i vostri occhi esprimono, vedo che vi aspettate di conoscere il segreto di cui sono a conoscenza. Ma è impossibile. Ascoltatemi con pazienza fino al termine del mio racconto e comprenderete facilmente perché sono così riservato su questo punto. Sprovveduto e pieno di entusiasmo, come ero io allora, a una sicura rovina e infelicità. Imparate da me, se non dai miei consigli, almeno dal mio esempio, quanto sia pericoloso acquisire conoscenza e quanto più felice sia chi crede mondo la sua città rispetto a chi aspira a elevarsi più di quanto la sua natura consenta. Quando mi trovai fra le mani un potere così sbalorditivo, esitai a lungo circa il modo di utilizzarlo, per quanto possedessi la capacità di suscitare la vita. Tuttavia, preparare un corpo atto a riceverla, con tutti i suoi intrichi di fibre, di muscoli e di vene, restava sempre un'impresa di difficoltà e di fatica inconcepibili. Fui incerto dapprima se tentare la creazione di un essere come me o quella di un organismo più semplice, ma la mia immaginazione era troppo esaltata dal primo successo per permettermi di dubitare delle mie capacità di dare vita a un animale complesso e meraviglioso come l'uomo. I materiali a cui potevo in quel momento ricorrere apparivano inadeguati a un'impresa così ardua, ma non dubitavo che alla fine sarei riuscito. Quindi mi preparai a una serie di insuccessi. Forse i miei sforzi sarebbero stati continuamente delusi e forse alla fine la mia opera sarebbe riuscita imperfetta. Tuttavia, quando consideravo i progressi quotidiani della scienza e della meccanica, ero incoraggiato a sperare che i miei tentativi avrebbero almeno gettato le basi di un futuro successo. Né la grandezza e la complessità del mio piano mi apparivano come argomenti a sfavore della sua realizzazione, perché fu con questi sentimenti che mi accinsi alla creazione di un essere umano. Poiché la piccolezza degli organi rappresentava un grande ostacolo alla mia fretta, decisi, contrariamente alla mia prima intenzione, di costruire una creatura gigantesca, alta 2,5 metri circa e robusta in proporzione. Presa questa risoluzione, impiegai proficuamente alcuni mesi a raccogliere e a preparare il materiale necessario, e poi mi misi all'opera. Nessuno può immaginare la complessità dei sentimenti che, come un uragano, mi spingevano avanti nel primo entusiasmo del successo. La vita, la morte, mi apparivano barriere ideali che avrei dovuto spezzare per riversare sul nostro mondo oscuro un torrente di luce. Una nuova specie mi avrebbe benedetto come sua origine e suo creatore. Molti esseri perfetti e felici avrebbero dovuto a me la loro esistenza. Nessun padre avrebbe avuto diritto a una gratitudine così totale da parte dei figli come quella che io avrei meritato da loro. Seguendo il corso di tali riflessioni, pensai che se potevo animare la materia inerte, avrei potuto, con l'andare del tempo, benché ancora mi fosse impossibile, rinnovare la vita, laddove la morte aveva in apparenza destinato il corpo alla distruzione. Tali pensieri valsero a sostenere il mio spirito mentre continuavo nella mia impresa con ardore instancabile. Le mie guance si erano fatte pallide per lo studio, il mio corpo emaciato per la reclusione. A volte, sull'orlo della certezza, fallivo, pure mi abbarbicavo alla speranza che il giorno o l'ora seguente potessero segnare il mio successo. Un segreto che io solo possedevo era la speranza a cui mi ero votato, e la luna era spettatrice delle mie fatiche notturne, mentre con costanza incrollabile e ansiosa inseguivo la natura nei suoi recessi più nascosti. Chi potrà mai immaginare gli orrori del mio lavoro segreto quando mi calavo nelle umide profondità di una tomba o torturavo un animale vivo per animare la creta inerte? Al ricordo le ginocchia mi tremano e tutto mi ondeggia davanti agli occhi, ma allora un impulso irresistibile, quasi frenetico, mi spingeva innanzi. Sembrava che sentimenti e sensazioni mi fossero rimasti per quest'unico scopo, ma fu solo un'esaltazione passeggera che valse unicamente ad acuire la mia sensibilità quando, scomparso lo stimolo innaturale, mi riuscì di tornare alle vecchie abitudini. Raccolsi ossa da cripte e disturbai con mano profanatrice i segreti del corpo umano. Attrezzai il laboratorio per la mia orrenda creazione in una stanza solitaria, o meglio, in una cella all'ultimo piano, separata dagli appartamenti mediante un corridoio e una rampa di scale. Gli occhi quasi mi schizzavano dalle orbite mentre seguivo i particolari del mio lavoro. Sala anatomica e mattatoio mi fornivano buona parte del mio materiale. Spesso la mia natura si ritraeva disgustata da quello di cui mi stavo occupando, mentre, spinto da un'ansia sempre crescente, progredivo nel mio lavoro e lo avviavo alla conclusione. I mesi estivi passarono mentre mi dedicavo corpo e anima a questo solo scopo. E fu una stagione splendida. I campi non avevano mai dato messe più abbondante e le viti una vendemmia più ricca. Ma i miei occhi erano insensibili alle bellezze della natura e gli stessi sentimenti che mi facevano trascurare il mondo circostante mi spingevano a dimenticare gli amici lontani che non vedevo da tanto tempo. Sapevo che il mio silenzio li inquietava e ricordavo perfettamente le parole di mio padre. «So che fino a quando sarai soddisfatto di te, ci penserai con affetto e avremo costantemente tue notizie. Devi perdonarmi se considererò ogni interruzione nella tua corrispondenza come la prova che altri tuoi doveri sono del pari trascurati». Sapevo, quindi, quale poteva essere lo stato d'animo di mio padre, ma non potevo distogliere i miei pensieri dal lavoro che, per quanto ripugnante, si era impadronito irresistibilmente della mia immaginazione. Era come se desiderassi rimandare tutto ciò che concerneva i miei sentimenti di affetto al giorno in cui avessi raggiunto il grande obiettivo che teneva occupata ogni fibra del mio essere. Allora pensavo che mio padre sarebbe stato ingiusto se avesse attribuito a colpa o negligenza la mia trascuratezza. Oggi invece sono convinto che aveva ragione a immaginare che io non fossi esente da colpa. Un essere umano in condizioni perfette deve sempre conservare equilibrio e serenità, senza permettere alla passione o a un desiderio transitorio di turbare la sua quiete. Non credo che la ricerca del sapere rappresenti un'eccezione a questa regola. Se lo studio a cui vi dedicate tende a indebolire i vostri affetti e a distruggere il gusto per le gioie più semplici e più pure, allora quello studio è certo illecito, cioè non è adatto alla natura umana. Se questa legge fosse stata sempre osservata, se l'uomo non avesse mai permesso che una meta qualsiasi interferisse con la tranquillità dei suoi affetti domestici, la Grecia non sarebbe caduta in schiavitù, Cesare avrebbe risparmiato il suo paese, l'America sarebbe stata scoperta in maniera più graduale, e gli imperi del Messico e del Perù non sarebbero stati distrutti. Ma dimentico che sto facendo della morale nel punto più interessante del mio racconto. La vostra espressione mi incita a continuare. Mio padre non mi rivolse mai alcun rimprovero nelle sue lettere e sottolineò il mio silenzio solo informandosi in modo più dettagliato delle mie occupazioni. Passarono così inverno, primavera ed estate, ma io non vidi la graduale fioritura né le foglie nascenti, spettacolo che mi aveva sempre colmato di gioia. Tanto profondamente ero occupato nei miei studi. Le foglie quell'anno appassirono prima che il mio lavoro si avvicinasse alla meta, ma ogni giorno di più mi vedevo vicino al successo. Eppure il mio entusiasmo era soffocato dall'ansia, e io, più che un artista che si dedichi alla sua occupazione favorita, sembravo uno schiavo condannato alle miniere o a qualche altra triste fatica. Ogni notte ero tormentato da una febbre leggera, il cadere di una foglia mi faceva sobbalzare ed evitavo i miei simili come se fossi colpevole di un crimine. Talvolta mi allarmavo nel vedermi ridotto a un relitto. Solo l'energia che mi dava il mio obiettivo mi sosteneva. Le mie fatiche sarebbero presto terminate e credevo che allora l'esercizio fisico e gli svaghi avrebbero scacciato la malattia incipiente. E mi ripromisi di concedermi entrambi non appena completata la mia creazione. Thank you.